Quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se la sveglia suonasse a mezzogiorno. A volte è bello avere 18 anni, magari senza scuola, magari senza esami. È bello se sul pullman qualcuno si lavasse. Invece ogni mattina io spruzzo il deodorante. È bello se nessuno alle 7 mi parlasse. Qualcuno si è accorto che c'ho un paio di cuffie. È bello il sei politico quando non ho studiato. E invece anche quest'anno mi sa verrò bocciato. È bello se ogni tanto un'equazione mi venisse. Ma c'è più speranza di sopravvivere a un'apocalisse. Oggi non voglio andare a scuola perché fa un gran freddo. Oggi sai che voglio fare come quando il professore dice scegli un argomento.